passerà. Sarà un vento caldo solo e pieno di pazzia che dal sud arriva e ti tiene sveglio. Anche se un po' lento vedrai che correrà. Passerà. Lasciami gridare solo un po' di melodia. Se capisci va bene assi no tu butto. Non puoi sempre dirmi che tempo non ce n'è. Ah, te cavoli. Ma che non capo. E manca un po' per me. A vita in un mozzo che nessuno è tu. Bella, con pochello che te. E non piccio sto ma senti. Pierdo tiempo a te guardar. Pierdo tiempo a te guardar. Guarda, dentro tiempo a tu guarda.